quello che è stato, tutto quello che eri, solo con le tue mani. Guarda dove sei adesso, non so dove andrò, ma so dove sto. Qui è tutto ok, anche se non ci sei. Ehi, non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Vecchie storie, nuovi kings, chi mi odiava, rest in peace. È solo scena e non fanno i fatti, sembrano troie in uno street. Il mio cuore non vale nulla, lei è un'altra stronza che urla. Lei pensa che sto bene, ma la mia coscienza è distrutta. E ho visto parecchie cose, e tu mi chiedi che cose. E io ti dico che non crederesti a certe cose. Penso al prossimo volo quando atterro. Il mondo è bello solo da un aereo. Non scordare quello che è stato, tutto quello che eri, solo con le tue mani. Guarda dove sei adesso, non so dove andrò, ma so dove sto. Qui è tutto ok, anche se non ci sei. Ehi, non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Non chiedermi come va, non chiedermi, chiedermi come va. Io lo so che vuol dire in giro senza manco un euro. Io lo so che vuol dire aprire gli occhi è tutto nero. Io lo so che vuol dire ti chiama gli devi soldi. Io lo so che vuol dire domani siamo già morti. Io lo so, ma non ho chiesto mai nessun aiuto. Mi sembra chiaro che spacco più del dovuto. È da un po' che mi guardano tutti quanti un po' strano. E la frase inizia sempre con scusa, possiamo? Dove cazzo stavi? Quando mi sentivo male, quando mi chiedevo io che cazzo vivo a fare. Ma mi sono abituato, certe cose me le aspetto. Con le droghe nell'armadio e gli incubi nel cassetto. Grazie ma per avermi fatto, ti dicevo che ero stanco quando mi vedevi fatto. Ora seguo la mia strada, mi distacco dall'asfalto. Sono me stesso, non riesco a essere un altro. Non scordare quello che è stato, tutto quello che eri, solo con le tue mani. Guarda dove sei adesso, non so dove andrò, ma so dove sto. Qui è tutto ok, anche se non ci sei. Ehi, non chiedermi come va, non chiedermi.